Come si fa? Carbone, un nome, una garanzia. Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. Quante soddisfazioni mi dai? Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe bello. Qui, oltre ad una pacca sulla spalla, naturalmente speriamo anche di fornire indicazioni pratiche e concrete. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. C'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare, da rifare, c'è da fare, c'è da fare, c'è da far da mangiare per un mondo affamato. E lo sappiamo bene tutti quello che c'è da fare in questo periodo, la dichiarazione dei redditi, non possiamo proprio sottrarci. E allora eccoci oggi a Cuore Denari. Abbiamo deciso di tornare su questo tema che abbiamo già affrontato la scorsa settimana perché ci siamo resi conto che, come spesso capita, data la confusione legislativa ricorrente, ci siamo resi conto che alcuni punti degli adempimenti fiscali di quest'anno non sono chiari. Insomma, la stagione della dichiarazione dei redditi è ufficialmente aperta e nel contempo si è anche spalancata la porta degli errori. È un tema sollevato da alcuni ascoltatori settimana scorsa, era quello relativo alle novità riguardanti i rimborsi fiscali superiori ai 4.000 euro che passerebbero sotto la lente dell'Agenzia delle Entrate e quindi non entrerebbero subito in tasca dei lavoratori. E 800 24 00 24, subito il numero di telefono, naturalmente il numero del nostro telefono verde, lo definiamo sempre così, se volete appunto intervenire su questo argomento, visto che la settimana scorsa in tanti avete sollevato la questione e abbiamo ci siamo resi conto appunto che tra centri assistenza fiscale e commercialisti le interpretazioni che al momento vengono date sono molto diverse ai clienti che appunto si stanno accingendo a fare la propria dichiarazione dei redditi. Intanto una cosa che possono fare è leggersi la guida in edicola oggi con il Sole 24 Ore come compilare il modello unico. Seconda cosa è quella di ascoltare Cuore Denari, dove salutiamo intanto Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. E allora modello 730, modello unico, naturalmente i contribuenti scelgono a seconda della loro situazione e a seconda soprattutto della loro condizione professionale di compilare un modello diverso. Noi ci rivolgiamo oggi, come abbiamo fatto settimana scorsa, ai tanti che in questo periodo stanno fissando l'appuntamento dal commercialista o dal CAF, cercando di mettere ordine fra i documenti e cercano appunto di definire al più presto quella che è l'ammontare, diciamo, delle tasse che dovranno versare quest'anno. Luca De Stefani, esperto di temi fiscali del Sole 24 Ore, buongiorno anche a lei. Buongiorno. E grazie della sua collaborazione, della sua disponibilità. Un altro tema che affronteremo nel corso della trasmissione, lo faremo alle 11.30, e che ha generato pure questo qualche perplessità a molti lavoratori, è quello relativo al bonus da 80 euro in busta paga. Il Premier Renzi, lo ricorderete tutti bene, aveva detto non dovete fare richiesta, vi verrà accreditato direttamente. E invece cosa è successo? Che in molti in questi giorni ci hanno segnalato che la propria azienda ha chiesto la compilazione di un modulo per la richiesta, l'accettazione, diciamo, del bonus o il rifiuto dello stesso. Che cosa significa questa lettera? Raccontateci anche voi se avete ricevuto questa richiesta da parte della vostra società, della vostra compagnia, della vostra azienda, quali informazioni aggiuntive vi sono state chieste per appunto ottenere il bonus. 800 24 00 24, il numero verde naturalmente per interagire con noi anche su questo tema. Allora Giovanni, andiamo subito al tema con il quale ho aperto, così almeno gli ascoltatori speriamo possano avere un'interpretazione definitiva della questione. Ammettendo che l'anno scorso un contribuente all'ascolto abbia fatto dei lavori di ristrutturazione molto importanti della propria abitazione e che quest'anno abbia diritto ad un rimborso come prima rata da parte del fisco superiore ai 4.000 euro, intanto sono circostanze secondo te plausibili? Sì, sono plausibili, però obiettivamente guardando non le sarà statistiche molto fiscali ampia la rosa dei contribuenti. 4.000 euro è una cifra abbastanza alta da raggiungere, devo dire la verità, perché stiamo parlando di rimborsi, non stiamo parlando di detrazioni, cioè di abbattimento dell'imposta, quindi diciamo di quanto hai pagato di più o quanto devi ottenere. 4.000 euro non è una cifra così facilissima da raggiungere, obiettivamente. Ecco, quindi questo è già una precisazione. Certo, allora in quali casi l'Agenzia delle Entrate accenderà un faro, punterà un faro sul rimborso e a carico di quali contribuenti? Allora, la norma è entrata in vigore dal 1 gennaio, perché era prevista nell'ultima legge di stabilità. Al momento abbiamo soltanto i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha dato a Telefisco su questo punto. Sì. E quindi sostanzialmente l'Agenzia delle Entrate che cosa ci ha detto? Che farà dei controlli preventivi, qualora appunto il rimborso è superiore ai 4.000 euro, in presenza di due circostanze: o la presenza appunto di detrazioni per carichi di famiglia, oppure aver riportato eccedenze di imposta dall'anno precedente, dalla precedente dichiarazione dei redditi. Queste sono le due precondizioni che devono dovrebbero coesistere o possono che essere sono alternative. Possono essere alternative, cioè esattamente, cioè o detrazioni per carichi di famiglia. Chi non dovesse avere detrazioni per carichi di famiglia e riporta invece delle eccedenze di imposta l'anno precedente, qualora sia il rimborso superiore ai 4.000 euro, l'agenzia fa il controllo preventivo. Questo che cosa significa? Stavo immaginando che potrebbe essere il mio caso, ad esempio. Potrebbe essere anche il tuo caso, sostanzialmente. No, perché ho una ristrutturazione che ho fatto 2 anni fa, anche se in realtà non so se la cifra che il fisco mi rimborsa annualmente, perché poi lì il rimborso per le ristrutturazioni dura 10 anni, non mi ricordo appunto se la cifra sia questa. Però, esatto, devi vedere. Ammettendo che sia superiore, cosa mi potrebbe succedere? Ammettendo che sia superiore, ti può succedere, che ti succederà, insomma, sostanzialmente, perché la norma è già operativa, che in busta paga per chi ha il 7,30 non si vedrà rimborsato i soldi a luglio, certo, o ad agosto per quanto riguarda i pensionati. Che cosa invece succederà? Che l'Agenzia delle Entrate si prende del tempo per poter effettuare dei controlli. La norma parla appunto di 6 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione, però non dà il termine entro cui va effettuato il rimborso. Quindi sostanzialmente c'è un termine per cui, entro cui va effettuato il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, non c'è un termine invece in cui va effettuato il rimborso. La morale sostanzialmente è che non potrai subito vederti in busta paga quanto ti spetterebbe. Però insomma, ragionevolmente l'Agenzia delle Entrate quanto tempo si prende allora per fare questo esame? Allora il problema è proprio questo. Non lo dice nessuno. No, non lo dice nessuno. Su questo bisogna magari sottolineare che da più settimane in discussione una risoluzione in Commissione Finanza alla Camera, e anche oggi verrà ripresa la discussione da parte dei deputati della Commissione Finanza, perché i deputati appunto, su proposta di un parlamentare PD, Ribaudo, vogliono fissare o un dietrofront a questa norma, quindi sperare di impegnare il governo ad abolirla, o quantomeno indicare un termine entro cui l'Agenzia delle Entrate debba erogare poi il rimborso qualora sia aspettante. Voglio sentire adesso il parere su questa faccenda da parte del professionista Luca De Stefani. Naturalmente ogni anno, se non arriva qualcosa di nuovo a complicarvi un po' l'esistenza, il fisco non è mai contento. Volevo raccontare ai nostri ascoltatori, se fossero interessati, che proprio sabato mattina sono andata a coordinare un evento a Brescia con i professionisti, con i commercialisti, sul tema del delirio fiscale e come gestiscono appunto i commercialisti questa fase di stress notevole, che prima, magari qualche anno fa, De Stefani era circoscritta, non lo so, al periodo di primaverile, tra aprile, maggio e giugno eravate un po' intasati in ufficio per lavoro, adesso invece tutti i mesi sono uguali, no? È vero, pensiamo solo che dal 1° di ottobre partirà l'F24 telematico obbligatorio per tutti, ecco. Quindi non solo per le partite IVE, quindi aziende, professionisti, magari attrezzati con i collegamenti internet, ma anche per le persone fisiche prive di partita IVA, se devono pagare più di 1.000 euro, e capita spesso anche con la semplice IMU, dovranno fare gli F24 solamente in maniera telematica online dal 1° ottobre. Quindi è proprio così. Ecco, per rispondere alla tua domanda di prima, che magari hai fatto qualche anno fa, se l'importo superava gli 80.000 euro di ristrutturazione edilizia, e qui in questo caso parliamo di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, quindi anche lavori importanti, ricordiamo che il limite massimo è di 96.000 euro, quindi se l'importo supera gli 80.000 euro, la detrazione oggi è del 50%, quindi abbiamo 40.000 euro di bonus fiscale, diviso 10 rate abbiamo 4.000 euro. Esatto, facciamo proprio il caso estremo, ecco. Esatto, rientriamo nella categoria. Quindi devono subire questo controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate chi porta in avanti dallo scorso anno crediti d'imposta superiori ai 4.000 euro, oppure chi quest'anno chiude con un credito superiore ai 4.000 euro anche non derivante dallo scorso anno, ma derivante da anche un euro di detrazione per carichi di famiglia. Queste sono le due tipologie. Le due tipologie. 800 24 00 24, il numero verde che potete comporre se vi ritrovate in queste tipologie. La spiegazione che vi abbiamo dato non è sufficientemente chiara, ci ritorneremo naturalmente. Poi per tutti gli altri aspetti legati alla vostra dichiarazione dei redditi di quest'anno potete lo stesso comporre il numero verde. Naturalmente siamo qui per chiarire ciò che non vi è chiaro, e naturalmente il fisco ci mette sempre un po' lo zampino a complicarci le cose, anche se poi in realtà quest'anno a quanto pare si è impegnato anche in iniziative positive. Per esempio sono aumentati gli sconti per i figli a carico, Luca De Stefani. Sì, certo, abbiamo un aumento di sconti che sono passati da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio a carico per età superiore ai 3 anni, oppure da 900 euro, che era quella dello scorso anno, a 1220 per i figli di età inferiore ai 3 anni. In caso di disabile l'aumento è passato, l'ulteriore detrazione è passata da 220 euro a 400 euro, quindi una maggiore bonus fiscale per questi figli a carico. C'è un ghigno sulla faccia di Giovanni Parente, per quale motivo? So che tu non sei sensibile. Perché Luca è stato precisissimo, però per dire la verità, se tu mi alzi le detrazioni e poi mi metti il titolo e mi metti il tetto per poterne sfruttare, cioè i rimborsi, cioè quantomeno un elemento di complicazione. Certo, no? Ha proprio assunto completamente le sembianze del giornalista del Sole 24 Ore, che naturalmente deve pungolare il fisco su tutti gli errori che commette, le incongruenze che possono essere sollevate. Hai fatto bene, naturalmente, però sai com'è, qua ci si prova, almeno vediamola in positivo, come si suol dire, il bicchiere mezzo pieno, cerchiamo di vederlo. Andiamo a sentire subito i nostri ascoltatori, e il primo a chiamarci oggi è Giuseppe da Pesaro, che saluto. Giuseppe, buongiorno, con maggior affetto, perché chiaramente chiamandomi dalle Marche, lei lo sa che io devo sponsorizzare un po' di più gli ascoltatori. Grazie Giuseppe, ci dica. Allora dunque, volevo sapere, io e mia moglie siamo due pensionati, pensione minimi, perché io prendo 800 euro al mese, mia moglie 950. Volevo sapere se era possibile non fare la dichiarazione dei redditi avendo solo la casa di proprietà. Allora Giuseppe, intanto lei diciamo che in automatico la fa, perché ci pensa l'ente di previdenza a inviarle la certificazione dei redditi che ha percepito lo scorso anno, anche se poi lì c'è tutta l'altra partita dell'andarselo a recuperare questo documento, no Giovanni? Intanto l'INPS, ricordiamo che non invia più il CUD a casa dei pensionati, altro tema che aveva sollevato grande dibattito e grande preoccupazione per molti pensionati. Giuseppe non è obbligato a fare dichiarazioni, nel senso che se ha delle spese magari mediche sostenute lo scorso anno e che, sulle quali vuole risparmiare, è chiaro che magari al fisco può dirlo, no? Sul tema della casa, sul tema della casa, che tipo di comunicazioni deve fare il nostro ascoltatore? Ha solo la casa di proprietà? Ha finito di pagarla, non è il mutuo da credo che sia non sia una situazione particolarmente difficile. In questo caso potrebbe anche bastare il CUD, vero? Penso che Luca potrebbe Luca De Stefano, infatti lui allora la fa già, ecco, cioè il tema è che noi diciamo che fanno la dichiarazione dei redditi coloro che hanno magari redditi ulteriori rispetto a quello da lavoro dipendente da dichiarare, o spese che hanno fatto con le quali vogliono alleggerire il peso delle tasse, ma altrimenti arriva già la certificazione o dall'azienda o dall'ente di previdenza, e quella è già la nostra dichiarazione dei redditi. Esattamente, questa è una cosa molto importante, perché per i non addetti ai lavori questo è un problema. Cioè quando arriva il CUD entro il 28 di febbraio, quella è già la nostra dichiarazione di redditi, se non ho altri redditi da dichiarare. Altri redditi che possono essere un altro lavoro part time, magari la sera in pizzeria, oppure un lavoro occasionale che mi genera una ritenuta d'acconto del 20%. Se poi ho altre case, ho seconde case, sono obbligato a fare la dichiarazione di redditi. Ma se ho solo appunto il CUD di lavoro dipendente o di pensione e la prima casa, l'abitazione principale, in questo caso non sono obbligato a fare alcuna dichiarazione di redditi, anche se a volte mi conviene, perché posso detrarre le spese mediche, le spese per i figli a carico, gli coniugi a carico e così via. E invece mi pare di aver capito che l'ascoltatore di Pesaro ha una situazione piuttosto cristallina, tale per cui appunto non ha bisogno di impelagarsi in tutto questo. No, l'unica cosa appunto è verificare se lui ha delle spese mediche, perché a quel punto gli conviene comunque fare il 7%. Senta De Stefani, la scorsa settimana un'ascoltatrice, se non mi ricordo male, ha sollevato la questione della mini IMU pagata a gennaio, se deve essere inserita in dichiarazione dei redditi quest'anno. No, purtroppo il mini IMU non è un'imposta detraibile, c'è qualche agevolazione solamente per le imprese e i professionisti che possono dedurre l'IMU per gli immobili strumentali, però diciamo per le persone fisiche non è possibile, certo, questo genere di detrazione. Andiamo in Sicilia adesso, ad Augusto, dalla provincia di Trapani, che salutiamo. Buongiorno Augusto e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno, veramente non sono in Sicilia, sono in Umbria, la provincia di Terni, comunque. Ah beh, certo, mi hanno scritto Trapani, va bene, abbiamo fatto questo giro del mondo stamattina, abbiamo circumnavigato l'Italia, ci dica Augusto comunque. Aspetta, io vorrei fare una domanda generica in questo senso, cioè vorrei capire per quale motivo, e se c'è un motivo di equità in questo, sì, se un cittadino è debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e poi per qualche motivo ha ragione di un credito e quindi diventa creditore, non esiste un principio di compensazione, cioè l'Agenzia delle Entrate rifiuta qualunque tipo di accordo in questo senso, dice no, tu prima paghi tutto il tuo debito, sì, poi a fine... È un po' simile, Augusto, al dibattito che si è creato relativamente alla questione dei debiti della pubblica amministrazione. Noi molti avevano proposto di fare un pagamento attraverso il credito d'imposta, tutto un po' più complicato. Comunque, che ne pensi del caso che ha sollevato Giovanni, il nostro ascoltatore? Allora, penso che con le compensazioni si potrebbe rendere tutto più molto semplice. Molto più semplice, infatti. Perché, insomma, se sei da una parte creditore dello Stato, dall'altro debitore, puoi in qualche certo modo annullare sostanzialmente le partite, le poste in gioco. C'è molta diffidenza nei confronti delle compensazioni da parte del fisco, devo dire la verità. Luca, giustificate secondo te o allora, meno? Molte operazioni antievasione, definiamole così, si sono concentrate sull'utilizzo in debito delle compensazioni. Luca lo sa benissimo, sono almeno 3 anni che non c'è un anno in cui non arrivi una stretta sulle compensazioni, in qualche modo una norma nuova, un nuovo vincolo, ne è scattata un'altra dal 1° gennaio, sempre nella stessa legge di stabilità che ha introdotto appunto il tetto sui rimborsi di 4.000 euro, adesso c'è quest'altra operazione che scatterà da ottobre sull'F24 telematico, quindi c'è molta diffidenza nel lasciare le briglie sciolte sulle compensazioni perché si teme poi un utilizzo in debito dello strumento. E quindi c'è però insomma in qualche modo bisogna dire che soprattutto quando c'è c'è in qualche modo un credito cristallino, limpido, cioè esigibile, esatto, certificato, non credo che possano esserci debbano esserci particolari vincoli, bisogna trovare una soluzione. Evidentemente è così. Allora poi chiederò il commento anche a Luca De Stefani su questo punto, gli metto però insieme anche la domanda di Gerardo dalla provincia di Monza e Brianza. Anzi chiedo pazienza a Gerardo, vorrei farlo scavalcare da Francesco da Vicenza perché torna sulla questione dei rimborsi fiscali superiori ai 4.000 euro, visto che siamo partiti da questo tema magari cerchiamo di chiuderlo anche. Francesco da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Sarò velocissimo. Sì. Niente, io ho praticamente svuotato la casa e l'ho rifatta nuova e quindi ho fatto tutto quanto quello che bisognava fare per chiedere i rimborsi. Una cosa, allora i rimborsi per quel che riguarda il 65%, io ho dovuto pagare un professionista perché seguono un percorso a parte, voglio dire, no? Cioè, che cosa vuol dire? Hanno dovuto fare la quantificazione, diciamo, del risparmio energetico che arrivava, esatto, nella sua abitazione. L'asseverazione all'ente di controllo. Beh, certo, Francesco, abbiamo dovuto fare tutti. E quello è un costo, e quello è il 65%. Poi c'è quello che riguarda il 50% e il 55%. La ristruttura manutenzione. La domanda mia era questa. Sì. Il commercialista mi ha detto, tu avresti diritto a un rimborso superiore ai 4.000 euro. Infatti. Però nel tuo CUD, l'importo dell'IRPEF è 4.000 euro, 4.100 euro. Tu comunque non puoi superare quei 4.100, la cifra che tu hai nel tuo CUD di tasse che ogni anno, certo, paghi. Cioè, ecco, era questa la questione che volevo capire. Luca De Stefani, anche se io avessi diritto a un rimborso di 6.000 euro, che ho tutto a posto, perché ho fatto tutti i bonifici, ho fatto tutte le fatture, tutto in regola, io comunque non avrei diritto perché nel mio CUD c'è scritto 4.000. Certo. Qual è la relazione? Ho capito perfettamente, Francesco. Luca De Stefani, qual è la relazione fra il rimborso che deve prendere Francesco e la sua capienza fiscale, chiamiamola così? Certo, allora, la risposta del collega è corretta perché non è possibile avere una detrazione fiscale superiore all'IRPEF che si è già pagata. In pratica lo Stato, per tutelarsi, non dà più ormai da diversi anni contributi a fondo perduto, cioè ti do dei soldi, dei contributi a fondo perduto, no, dà dei, ti fa prima pagare le tasse. E certo, poi successivamente, se hai avuto una spesa detraibile, una spesa agevolata, ti dice ti compensi le tasse, non ti restituisco quelle tasse che hai pagato con la compensazione. Quindi banalmente, per fare un esempio ancora più semplice, se con i suoi risparmi di tutta la vita fosse stato un pensionato con una pensione minima ad essersi imbarcato in questo lavoro di ristrutturazione e avesse diritto teoricamente ad un rimborso fiscale di 4.000 euro, ma le tasse che paga, l'IRPEF che versa con la pensione sono tipo di 1.000 euro l'anno, non è possibile avere nessun bonus, anche se cioè, non ottieni 3.000 euro di differenza sostanzialmente, esattamente, pensando esattamente di avere questa, come dire, questa pensione aggiuntiva, una tredicesima quasi non ce l'ha. Sì, ecco, certo. Qua, tornando alle compensazioni in F24, ricordiamo appunto che dal 1 gennaio di quest'anno, per poter compensare qualunque tipo di imposta che risulta dal modello unico superiore a 15.000 euro, e insomma sono importi rilevanti, però ci sono molti contribuenti che chiudono con crediti superiori a 15.000 euro, magari per detrazioni, per bonus oppure anche per crediti IVA, è necessario avere il visto di conformità, ecco, della dichiarazione di redditi da parte di un professionista. Quindi il contribuente deve pagare un professionista che visti, che certifichi la sua dichiarazione e si assume anche le relative responsabilità per poter compensare questo credito d'imposta che vanta dallo Stato nei confronti di altri debiti come può essere l'IMU o i contributi. E aggiungiamo adempimenti su adempimenti, dei quali peraltro, nonostante quello che si pensi in termini generali, i commercialisti non è che siano proprio così contenti ad avere tutte queste cose da fare. 800 24 00 24, continuate a prenotare i vostri interventi sul tema dichiarazione dei redditi di quest'anno. Noi adesso sentiamo cosa succede in borsa. Cuore e denari. Riuscire a inviare a tutti i dipendenti pubblici e ai pensionati direttamente a casa, magari attraverso uno strumento di tecnologia semplice, visto che il Papa ha detto che internet è un dono di Dio, bene, possiamo smetterlo di considerare il nostro ostacolo o un problema, la dichiarazione dei redditi precompilata. Allora, i CUD arrivano già, quindi, al Premier Renzi, lo dobbiamo già dire, quindi parzialmente già ci arriva. Però, Giovanni Parente, secondo te ci sono i presupposti per ricevere dal prossimo anno la dichiarazione dei redditi precompilata? Quindi prima un parere giornalistico, poi va dal professionista. Sì, i presupposti ci sono. Sarà un po' un maxi CUD. Ecco. Perché, insomma, le spese di cui dispone il fisco, ecco, cioè, esatto, la conoscenza di cui, delle spese di cui dispone il fisco, c'è. Per esempio gli interessi sui mutui, le polizze, c'hanno i premi polizze. C'hanno 12.000 banche dati a cui fanno riferimento, basta farle parlare un po' di più, insomma, ma se per spesometro e redditometro le fanno parlare, perché non per la dichiarazione dei redditi precompilati? Cioè, i presupposti ci sono. Sulla attendibilità dei dati, cioè sul fatto che poi il contribuente non debba effettuare verifiche, non debba riportarle al CAF, sarei un po' cauto. Ecco, infatti, Luca De Stefani, lei che ne pensa? Quando aveva sentito questa dichiarazione ha detto oh no, nuovi guai in arrivo, oppure ben vengano queste dichiarazioni dei redditi precompilate, ne dobbiamo fare di meno noi. De Stefani, è svenuto? Pronto? Sì, ci siamo. Per poter detrarre comunque tutte le spese mediche sono dati che difficilmente il fisco riesce ad avere, magari qualche dato delle assicurazioni ha nei suoi archivi, ma la spesa medica singola o la retta dell'asilo nido sicuramente sono spese che devono essere compilate, quindi siccome la dichiarazione dei redditi oggi è composta da quasi centinaia di pagine, 10 anni fa, 30 anni fa era composta di 4 paginette e le tasse si pagavano comunque, ecco, oggi è composta da molte più pagine e sicuramente lo Stato riuscirà a compilarcene 2-3, non di più. Allora, andiamo adesso invece al tema, siccome poverino aspetta da tanto, sento Gerardo della provincia di Monza e Brianza, poi vado agli 80 euro in busta paga. Gerardo, buongiorno e mi scusi. Buongiorno a lei, l'ho fatta stare un po' lì appeso al nostro microfono perché sa, mi piace essere lusingata in questo modo con gli uomini che aspettano lì la Rosciani. Ci dica tutto. Va benissimo comunque. No, domanda molto semplice. Mio figlio ha contratto un mutuo contestato con me. Teniamo presente che l'appartamento, la casa di cui abita, è intestata solo a lui. Sì. Quindi si pone il problema gli interessi. Chi li detrae? Esatto. Ecco, intestata la casa, suo figlio lavora, Gerardo? Sì, mio figlio lavora, la casa è intestata solo a lui, solo il mutuo è cointestato, perché per questioni anche mi hanno praticato uno spread più agevole, cointestando e non pensavo che le avesse le hanno chiesto anche quindi... delle garanzie per erogare questo mutuo a suo figlio? È stato costretto suo ragazzo ad andare con papà in banca? Sì, esatto. Allora, vediamo chi può risparmiare su questa spesa. Gerardo, la ringrazio. Giovanni Parente? No, volevo sapere appunto se era pagato quindi da entrambi sostanzialmente il mutuo? No, il mutuo è pagato solo ed esclusivamente da mio figlio, io non lo pago, lui ha un conto è tutto. Però è cointestato ad entrambi. Esatto, è cointestato ad entrambi. Secondo me potete fare 50-50. Luca De Stefani. Allora, però io ho già un appartamento mio e quindi detraggo quello che è il mio mutuo. Teoricamente se io avessi intestato quella casa, per me sarebbe stata una seconda casa. Certo, quindi è solamente il mutuo che avete sottoscritto insieme. Esatto. Ma una situazione più semplice, Gerardo, mannaggia, lei non ce la poteva avere. Sto scherzando, naturalmente. Però c'è la risposta. De Stefani, sì. Ecco, bene. C'è la circolare 95 del 2000, ricordo, che tratta proprio un tema simile, non tanto tra padre e figlio, ma tra coniugi. Comunque è assimilabile il caso. Se abbiamo un soggetto che acquista un'abitazione con un mutuo cointestato con un altro soggetto, in questo caso appunto il padre, purtroppo la detrazione spetta solo ad uno dei due, anche se paga completamente lui tutta la parte del mutuo, oppure se la retta viene, l'importo della rata viene divisa per due. Quindi la detrazione spetta solamente per il figlio e per la metà. Bene. O comunque in questo caso qui, perché paga solamente tutto quanto lui, quindi allora 100%. Esatto, allora prossima volta naturalmente non chiedetemi consigli, perché io già ero pronta a derogare a metà il beneficio fiscale, invece in questo caso vabbè, l'importante è che non vada vanificato, che non vada perso, che qualcuno lo prenda. Allora abbiamo Adamo da Pescara, Ugo da Milano. Voi pensate che stamattina ci ha chiamato il segretario regionale della CISL Lombardia, che saluto e ringrazio di essersi addirittura interessato ad intervenire in diretta. Volevo andare gli 80 euro in busta paga per capire un po' Ugo come si stanno comportando le aziende in questo periodo, che stanno inviando delle lettere con una richiesta di una sorta di autocertificazione ai lavoratori dipendenti. Le chiedo se magari anche alla CISL è arrivata qualche richiesta di chiarimento su questo. Sì, in effetti l'iniziativa di rimborsare 80 euro ai lavoratori è un'iniziativa che, come ovvio che sia, i lavoratori hanno gradito. Dopodiché, come sempre in questo paese, da tra il dire e il fare, anche in una regione come la Lombardia, c'è di mezzo il mare. Perché c'è chi non sa se ne riceverà 80 o ne riceverà di meno. E c'è chi, appunto, come avete detto, si sta vedendo richiedere dalle proprie aziende la compilazione di moduli, perché gli viene chiesto se il tuo reddito dovesse superare per altre entrate i 1500 euro che sono la base di riferimento per gli 80 euro, devi dichiararci che non hai diritto agli 80 euro, di modo che non te li diamo. Ma è chiaro che a questo punto dobbiamo invitiamo i lavoratori ad andare ai CAF, ai commercialisti, per capire se hanno diritto o non hanno diritto. Insomma, allora, lei una volta che si faceva una cosa che non è il mio, non è un giudizio politico, è un giudizio sindacale, ha avuto il plauso di tutti, stiamo riuscendo a renderla complicatissima. Esatto. Anche questa. Lei lo sa che nell'esecutivo di qualunque maggioranza politica c'è sempre un ministero della complicazione, affari semplici, che è un convitato di pietra ad ogni evento, per ogni iniziativa, che non viene mai nominato. Esatto, però è sempre ben presidiato. Ugo Duci, se mi permette un secondo, ritornando per un attimo solo sui 4.000 euro. Bravo, perché lei per questo che ci ha chiamato, certo. No, perché avendo l'esperienza, sto vedendo in questi giorni i nostri CAF ovviamente al lavoro per fare le dichiarazioni dei redditi, mi pare di aver capito che anche qui, secondo me con buon senso, la linea che viene portata avanti dai nostri CAF, a fronte del fatto, come ha detto il vostro esperto in studio, che non ci sono certezze di quando il cittadino riceverà, fatti i debiti controlli, i 4.000 o più euro che gli competono, il consiglio che viene dato quando i 4.000 euro si raggiungono a seguito di una pluralità di voci, di detrazioni mediche, ristrutturazione e quant'altro, e di non dichiarare qualche cosa a cui si avrebbe comunque diritto come detrazione per restare sotto i fatidici 4.000 euro e ricevere con certezza un po' meno. 3.900 Duci. Ugo Duci, noi avevamo avuto questo sospetto, non avevamo voluto dichiararlo così apertamente, però speriamo insomma che in realtà l'Agenzia delle Entrate si metta una mano sulla coscienza, come dire, ipotizzi una modalità di controllo poi per l'erogazione semplice e veloce e che quindi insomma non vada per le calende greche, come si suol dire, questo rimborso. Però certo che se lei l'ha suggerita così, speriamo che in realtà poi i contribuenti non si sentano stimolati a farlo. Però per andare in onda il traffico. Eccolo qua. Allora, io ringrazio Ugo Duci, segretario regionale CISL Lombardia, che di sua spontanea iniziativa ci ha chiamato questa mattina chiarendoci anche un po' le modalità con cui stanno facendo assistenza i CAF CISL in questo periodo. Io volevo sentire invece sul tema della lettera che sta arrivando in questi giorni Maria Rosa Gheido, che saluto. Buongiorno a tutti voi. Dottoressa Gheido, una consulente del lavoro, esperto del Sole 24 Ore su questo argomento. Dobbiamo sentire adesso i suggerimenti per chi è in viaggio. Senta, dottoressa Gheido, io le faccio questa proposta. Siccome tra un po' ho anche il professor Barbanti su un'altra questione, lei accetterebbe di slittare il suo intervento alle 12.10? Sì, è molto sì, impegnata sì, stamattina. Non ci sono la ringrazio. Problemi. Manteniamo un po' di suspense su questo argomento bene. E poi vi faremo sentire che lettera arriva in questi giorni ai dipendenti che avrebbero diritto agli 80 euro in busta paga. Cuore e denari. I sogni son a dire che stamattina abbiamo capito chiaramente che il nostro sogno, che mai e poi mai si realizzerà, sarebbe quello di avere una dichiarazione dei redditi molto semplice, un fisco con il quale dialogare con semplicità. Le cose oggi non stanno così, ne sono addirittura molto stressati persino i commercialisti. Ma a proposito di sogni, son desideri, intanto ricordo agli ascoltatori che sulla dichiarazione dei redditi possono continuare a prenotare i propri interventi all'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Ma a proposito di sogni che sono desideri, o come scriveva William Shakespeare nella Tempesta, noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Questo per dire che quello che sogniamo racconta molto di noi e della nostra vita. Per Freud, il padre della psicanalisi, i sogni sono lettere inviate a se stessi, ovvero messaggi con cui l'inconscio porta conoscenza dalla parte consapevole della mente umana tutta una serie di desideri e di impulsi rimossi. In questo periodo così caldo per la dichiarazione dei redditi, magari vi sarà proprio capitato di sognare il colloquio con il vostro commercialista o di avere addirittura degli incubi sul vostro 7.30. E allora analizziamo anche un po' questa circostanza con il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana. Buongiorno professore, bentornato a Cuore Denari. Buongiorno Deborah, ben trovata. Allora, sì, diciamo che un po' anche per noi qualche volta è un incubo fare trasmissioni di questo tipo in cui dobbiamo districare le matasse del fisco e a beneficio dei nostri ascoltatori. Lo facciamo volentieri, ma è un bell'impegno. Anche lei ha sognato il modulo della dichiarazione dei redditi, professor Barbanti? Purtroppo più che sogni sono desideri, questi sono sogni che sono realtà. Devo dire che a volte la dichiarazione dei redditi assomiglia più a quello che viene chiamato un disturbo da stress post-traumatico, cioè un ricordo istoriato nella nostra memoria, quindi sostanzialmente un incubo. Volevo però dire una cosa relativamente al sogno, è un programma in questo momento che parla di denari e noi affoghiamo in una situazione economica non delle migliori. Vorrei citare sul sogno un proverbio africano che dice che il sogno di un uomo è un sogno, il sogno di una coppia è un progetto, ma il sogno di una comunità è una realtà. Quindi chiudiamola in positivo, dichiarazione dei redditi a parte, chissà che l'economia non parte un po' meglio. Esattamente, soprattutto se la facciamo tutti, se si combatte con trasparenza questa evasione fiscale, ma qua stiamo prendendo un'altra piega più complessa. Ritorniamo ai nostri sogni, professor Barbanti. Lei lo sa, sono una donna di denari, mi piacciono i numeri, insisto su questo. Ho letto che passiamo circa 6 anni della nostra vita a sognare, 50.000 ore complessivamente, un tempo davvero sostanzioso, quindi penso che dobbiamo avere molta cura anche di questo momento, trascorrerlo, mi viene anche difficile dire questa parola, nella maniera più serena possibile. Ma come si fa? tu, che è vero, beh, intanto anch'io intanto faccio i conti di quanto trascorriamo a sognare. Secondo le mie stime siamo intorno a 45.000 ore, circa 590 ore all'anno. Il sogno occupa il 20% della nostra notte e il 50% di quella del bambino. Immaginiamo che a 2 anni è dimostrato che il bambino è in grado già di sognare e invece per 9 anni ha un sogno adulto. A cosa serve il sogno? Beh, sicuramente per un neurofisiologo il sogno serve per scolorire le emozioni che sono legate ai ricordi e farci ricordare meglio in maniera meno gravosa. Freud, ovviamente l'abbiamo sentito prima, è stato ben esemplificato, considerava i sogni delle lettere che ci inviamo da soli. C'è un modello, direi quasi anatomico, molto convincente, che può spiegare anche l'intrusione di fatti della quotidianità, come la dichiarazione dei redditi. Proviamo a spiegarlo come se fosse un concerto rock. E cioè, nel nostro cervello noi abbiamo, nella parte più antica, più profonda, una sorta di percussionista che incomincia a mandare il suo ritmo. Cioè, noi dobbiamo sognare, è un segnale interno di qualunque cosa si tratti. Questo segnale poi giunge nelle parti più evolute del cervello, che immaginiamo essere il cantante rock, che ci crea sopra un motivo, un motivetto sulla base della sua formazione, emotività, memoria. Però c'è l'ambiente, in un concerto rock che si rispetti anche l'audience partecipa, ed ecco quindi l'influenza ambientale. Ecco perché, se abbiamo dei bisogni, a volte la sete e la fame ci fanno sognare di bere o mangiare, ma dei bisogni anche economici impellenti, c'è una sorta di apparente inquinamento di un fattore ambientale in un qualcosa che nasce dal nostro profondo, colorito con la nostra tradizione e cultura. Insomma, una bella miscela tra profondo e realtà quotidiana, anche banale. Ecco, quando nel nostro profondo c'è una preoccupazione, invece, professor Barbanti, come potrebbe essere in questo periodo la dichiarazione dei redditi? Cosa succede nel nostro cervello? Beh, intanto noi abbiamo un cervello che non stacca perfettamente l'informazione, quello che si chiama hyper arousal, iperveglia. Come possiamo pensare, faccio sempre l'esempio del ferro da stiro, una stira tutto il giorno, alla sera si aspetta che sia gelido, no, alla sera è ancora bollente, quindi abbiamo un sonno meno profondo. A volte possiamo avere gli incubi. Che cos'è l'incubo? L'incubo è esattamente un sogno, nulla di diverso, solo che è un sogno ansiogeno e ci sveglia. Quante volte abbiamo detto, ma come mai io sogno, non sogno, ricordo i sogni? No, tu i sogni li ricordi se ti svegli entro 8 minuti dall'ultima fase REM. Nell'incubo, per principio, te lo ricordi, perché ti svegli nel pieno del sogno, ovviamente negativo. E questo spiega anche, magari in tempi di difficoltà relazionali, economiche, la nostra facilità a svegliarci con un incubo contingente del quotidiano. Insomma, è tutto molto interessante. Sento, ho letto a proposito di questo, in questi giorni, era sui giornali, una ricerca americana che ha scoperto come indurre i sogni lucidi. Ma un po' cosa vuol dire questo sognare a comando? A qualcuno in realtà un po' capita, no, di pensare magari con insistenza ad una cosa durante la giornata e alla fine questa, come dire, questo pensiero si trasforma poi nel sogno, no? È un po' questo, professor Barbanti, o non ho capito bene cosa indica questa ricerca? Cosa succede nel nostro cervello che induce il sogno lucido? Ho letto bene l'articolo scientifico che poi l'articolo invece sulla stampa. La stampa è un po' romanzata, ma quello che hanno fatto questi ricercatori è stato qualcosa di molto interessante. E cioè, stimolando elettricamente un soggetto che sognava con alcune frequenze, 40 Hz, che è il ritmo gamma, nelle zone anteriori del cervello, hanno sostanzialmente fatto in modo che il paziente che sognava ciò che voleva sognare, e quello che evidentemente capitava, passava il convento quella notte, si rendesse in parte conto che stava sognando, e cioè hanno introdotto degli elementi di veglia durante il sonno. Questo è un qualcosa di molto interessante, pubblicato su una rivista prestigiosissima, ma insomma è un po', diciamolo, anche un narcisismo di noi neurologi, neurofisiologi che studiamo i meccanismi. Quale potrebbe essere la ricaduta? Che possiamo sognare i numeri da vincere all'otto? No, questo è la cabala. Diverso è il poter magari coscientizzare dei conflitti drammatici che abbiamo al nostro interno, e quindi questa mescolanza di avere da un lato l'istinto che parla, dall'altro una ragione, una sorta di veglia indotta elettricamente dall'esterno per vincere le nostre gravi inibizioni, ma insomma da qui all'applicazione fare pratica. Delle rielaborazioni notturne in sostanza di quello che ci trasciniamo dalla giornata. Io l'ho detta un po' alla Rosciani, professor Barbanti, naturalmente. No, lei l'ha detta molto bene. Io la ringrazio molto per essere stato con noi. Insomma, facciamo in modo che questa dichiarazione dei redditi non venga a trovarci nel corso della notte e che invece appunto lasciamo che vada a disturbare i sonni dei commercialisti. Professor Barbanti, grazie molte per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. Arrivederci. Ride Giovanni Parente. Devo dire che anche ai giornalisti del Sole 24 Ore non è che poi tutte le, come dire, circolari dell'Agenzia delle Entrate che arrivano alle 8 di sera, Giovanni, perché capita sempre così. Non è che poi voi vi faccia dormire. Quelle non ci fanno andare a dormire, quello è il discorso. Esatto, infatti, perché dobbiamo dire che la redazione di Norme e Tributi del Sole 24 Ore è quella che chiude più tardi di tutti, forse a pari merito con la finanza, ma devo dire che probabilmente adesso il fisco vince su questo. Allora, io mi pesco adesso la domanda di Adamo da Pescara e poi gli rispondiamo dopo la ripresa di Cuore e Denari, dopo il giornale radio, così almeno Adamo non aspetta vuoto. Adamo, buongiorno, ci dica subito e poi le rispondiamo fra qualche istante. Sì, allora buongiorno. Praticamente io l'anno scorso ho dovuto lasciare il lavoro e mi hanno dato un incentivo. Ho chiesto informazioni e sembrerebbe che io debba fare comunque 7.30. Chiedevo se devo fare 7.30 o l'unico, perché devo pagare le tasse, certo, su questo incentivo che già netto di tasse pagato dal corso. Benissimo. Adamo, stia lì 10 minuti, torniamo alle 12:12 circa, tra poco. Cuore e Denari. Con riferimento al decreto legge del 24 aprile 2014 numero 66 relativo al bonus lavoro di 80 euro mensili con decorrenza dal mese di maggio 2014, inviamo un modulo allegato per la richiesta o rifiuto dello stesso. L'importo verrà erogato a fronte di un reddito imponibile presunto ai fini IRPEF per l'anno 2014 compreso fra gli 8.000 e i 24.000 euro e fino a 26.000 euro con formula decrescente. Vi preghiamo quindi di compilare e consegnare il modulo allegato al più presto possibile. Ed eccoci ritrovati a Cuore Denari. Questo era un facsimile, un facsimile appunto delle lettere che molte aziende stanno inviando, delle comunicazioni interne che molte aziende stanno inviando ai propri lavoratori, che diciamo dal punto di vista reddituale avrebbero teoricamente diritto al bonus da 80 euro che dovrebbe essere erogato con la busta paga di questo mese. E però appunto le aziende, come avete sentito, chiedono una sorta di autocertificazione ai propri lavoratori dipendenti. E allora vogliamo saperne qualcosa di più, anche per capire come devono essere compilati questi moduli. Maria Rosa Gheido, consulente del lavoro, la risaluto ancora, l'abbiamo fatta slittare prima, eccoci di nuovo a lei, buongiorno intanto. Buongiorno. Allora, dottoressa Gheido ieri mi ha detto, è giusto, anch'io ho consigliato a molte aziende di inviare questa richiesta ai propri dipendenti, perché? Ecco, non proprio questa richiesta, che non condivido nella parte in cui dice di aver diritto, perché il sostituto d'imposta è tenuto ad erogare automaticamente il bonus. Quello che invece ritengo purtroppo, ma nell'interesse dello stesso lavoratore, necessario è che il lavoratore comunichi se eventualmente ritiene di non avere diritto. E questo per una serie di considerazioni. La prima è che il diritto è riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro sulla base dei dati che certo. Lui, il datore di lavoro, conosce. Quindi se c'è un reddito però, complessivo, ecco, percepito da questa azienda, esatto, inferiore ai 26.000 euro... L'affitto di un immobile, ci può essere una pensione, ci può essere una serie di redditi che sono aggiunti, che il lavoratore non è tenuto a comunicare. All'azienda, certo, non al fisco. Non è mai a dirgli, guarda, che io ritengo di non avere diritto. Ma questo nell'interesse del lavoratore soprattutto, perché non dimentichiamo che il sostituto d'imposta è semplicemente un tramite, uno strumento di erogazione, ma la responsabilità sulla debenza o meno di questo importo rimane a carico del sostituito, cioè certo, del contribuente lavoratore. Quindi per farci capire, dottoressa Gheido, sarò un po' brutale per essere molto chiaro ai nostri ascoltatori. Allora, in quale caso il lavoratore che riceve questa richiesta di chiarimento da parte della propria azienda deve dire rifiuto il bonus? lo deve fare, o perlomeno è suo interesse farlo, perché poi può anche non farlo, però è chiaro che poi dovrà, con la dichiarazione dei redditi, restituire per intero il bonus percepito che non spettava, e questo può essere doloroso. È tenuto a farlo quindi ogni qualvolta, sulla base delle sue conoscenze personali, è consapevole, magari perché ha un altro rapporto di lavoro, può capitare, anzi capita sempre più spesso oggi, che lui supererà come reddito complessivo imponibile all'ordo degli oneri deducibili, quindi quel RN1 che c'è in dichiarazione dei redditi, lì ci sarà scritto un importo che supera anche di un solo euro i 26.000. A questo punto è chiaro che è suo interesse, perché poi percepire mensilmente questo importo è anche piacevole. Ma restituirlo in unica soluzione diventa poi accortamente sgradevole. Esatto, anche perché alla fine dell'anno saranno circa 600 euro abbondanti, per cui se poi l'anno prossimo dobbiamo ridare indietro tutto, e qua le cose si complicano. Dottoressa Gheido, la ringrazio molto per averci dato questo chiarimento. Piacere. Buona giornata. Noi continuiamo con la nostra dichiarazione dei redditi, per cui ancora a mano la cornetta, chiamate, abbiamo 20 minuti di tempo tutti interamente dedicati a voi all'800 24 00 24. Ma Luca De Stefani mi chiedeva anche di fare una precisazione sull'erogazione di questi 80 euro. Anzi, poi c'è anche Cledis da Milano, che è stata la prima ascoltatrice che ci ha scritto questa mattina, adesso vorrei leggere anche il suo messaggio. Le chiedo, è possibile che si possa verificare che magari non in questo mese di maggio, magari non a luglio, non ad agosto, ma a settembre, l'azienda sia improvvisamente incapiente per erogare questo contributo? Sì, in pratica la regola è che l'azienda anticipa gli 80 euro, poi ha un credito d'imposta che può compensare in F24. Il problema è che questo credito d'imposta può essere compensato solo con ritenute fiscali oppure contributi INPS riferiti allo stesso periodo, allo stesso mese praticamente, in cui è stato erogato questo importo di 80 euro. Ecco che nel mese di luglio, con i conguagli IRPEF, può capitare che l'azienda paghi un cedolino al proprio dipendente più alto rispetto a quanto dovuto e recuperi questo importo di pagamento maggiore dalle tasse che solitamente paga per i dipendenti. Quindi già con i conguagli di 7,30, dei modelli 7,30, va a zero di IRPEF da versare. Quindi diciamo che il mese che dobbiamo tenere sotto stretta osservazione è quello di luglio, in cui si potrebbe potenzialmente verificare questa situazione, in cui il bonus non arrivi perché l'azienda non ha liquidità in cassa, detta no, proprio banalmente, no? No, il problema è che l'azienda versa comunque gli 80 euro al dipendente, però poi non può recuperare questi 80 euro dalle tasse che lei dovrebbe versare per il dipendente con l'F24, perché già quelle tasse sono annullate grazie ai conguagli di S7. Allora, insomma, Giovanni Parente deve sapere che a luglio avrà questo bell'argomento sicuramente da sollevare, perché probabilmente qualche azienda si troverà in questa situazione. Che ne pensi? Soprattutto le piccole imprese rischiano di trovarsi in questa situazione. Allora, intanto qua noi siamo uno di fronte all'altro, ma paradossalmente Giovanni Parente mi manda delle mail dalla sua postazione alla mia, perché appunto abbiamo sentito nel giornale radio quello che è successo questa mattina. C'è stata l'approvazione al Senato e adesso va alla Camera del provvedimento sul bonus mobili, che magari sarà un tema che potremo affrontare anche prossimamente a Cuore Denari, perché anche lì si era creata un po' di confusione fra chi voleva ottenere questo beneficio fiscale e quindi risparmiare il 50% su 10.000 euro di acquisto di mobili, ma magari faceva una ristrutturazione che valeva molto meno di questo acquisto, no? Esatto. E quindi si era creata un po' di bagarre fiscale, tanto per cambiare. E mettimi sto limite, toglimi sto limite, rimettimi sto limite. Adesso la situazione qual è? Quindi se io quest'anno voglio rifare tutto l'arredamento di casa, spendo 10.000 euro, quanto di ristrutturazione devo spendere? Adesso poi praticamente la spesa non è vincolata più alla spesa per la ristrutturazione, o meglio, devi aver fatto la ristrutturazione che ti dà diritto al bonus del 50%. Se spendo 2.000 euro per la ristrutturazione, comunque mi ridanno 5.000 euro di mobile. Puoi spendere fino a 10.000 euro per il bonus mobile. Attenzione, è l'emendamento approvato, il testo dovrà essere approvato alla Camera, però insomma adesso verosimilmente sembra che l'abbiano finalmente risolta. Invece prima la situazione provvisoria era che se io spendevo 2.000 euro per ristrutturare 10.000 euro di mobili, potevi aver diritto allo sconto fiscale solo per 2.000 euro sulla spesa del bono per i mobili. Quindi insomma, bocce ferme, la situazione è questa con questo nuovo emendamento. Adesso speriamo che avvenga la formulazione definitiva di questo provvedimento. Ritorniamo alla dichiarazione dei redditi. Ah no, Cledis da Milano, che ci ha scritto da tanto. Vorrei sapere, Luca De Stefani, abbiamo lasciato la Gaido, ma sono certa che anche lei sappia rispondere alla nostra ascoltatrice. Io come collaboratrice domestica, lavoratore, ho la possibilità di avere gli 80 euro, lavoro anche come operaia, sempre ad ore. Anche in questo caso ho questo diritto? Allora, due redditi da situazioni differenti. Deve arrivare, non so se arrivi neanche a 26.000 euro l'anno, ammettendo che abbia, come dire, complessivamente la condizione reddituale per avere il bonus, ma due situazioni di lavoro un po' così complicate. Certo, diciamo che è bene in questo caso che scelga il datore di lavoro che eroghi questi 80 euro, perché può aver diritto solamente ad un bonus, e se la somma di due redditi supera i 26.000 euro abbiamo un problema di diritto di spettanza di questo bonus. Quindi deve fare questa cosa, scegliere intanto Giovanni. No, la famiglia, cioè la famiglia non può erogarglielo. Esattamente, comunque, dovrebbe infatti, comunque sperare. Quindi diciamo è obbligatoria la scelta in questo caso, quindi deve scegliere l'azienda. Come operaio, però deve comunicare quanto percepisce di credito IRPEF dall'altra parte. Che è la cosa che abbiamo affrontato poco fa, quindi è abbastanza probabile che l'azienda nella quale lavora per qualche ora al giorno le abbia fatto questa richiesta di autocertificazione, chiamiamola così. Lei deve dire che contestualmente percepisce anche l'altro reddito, giusto? Certo, esattamente. E poi appunto probabilmente però per condizioni reddituali arriva lo stesso ad avere il diritto agli 80 euro in busta paga o giù di lì, insomma, poi vedremo quale cifra sarà. Chi peschiamo? Paolo da Ascoli, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Allora, mio figlio lavora in un'altra città. Sì. E affitta un appartamento. Uh-huh. E poi va all'università. Queste due voci di spesa sono detraibili dal suo 7,30? Oppure possono alleggerire la dichiarazione dei redditi del papà, giusto Paolo? No, mio figlio è autonomo. È lavoratore. Chiedo scusa, autonomo non vuol dire che lavora in proprio, è dipendente di un'azienda. Certo, è indipendente dalla famiglia, diciamola esatto. Così. Grazie. Bravo. Paolo. Allora, Luca De Stefani, le spese per i canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede sono appunto detraibili, però in questo caso si autosostenta questo ragazzo. Sì, se non ha un reddito con cui compensare questa detrazione del 19% dell'importo dei canoni pagati per l'affitto, appunto. No, ce l'ha perché lui lavora. Ecco, se lavora, se ha un importo IRPEF superiore ai 500 euro, sicuramente può beneficiare dell'intero bonus, perché appunto ricordiamo il limite massimo di detrazione IRPEF in questi casi è di 500 euro. Ecco, però deve praticamente stare ad almeno 100 km di distanza dal comune di dove risiedeva prima. Esatto, provincia diversa di dove ha la residenza. E appunto deve essere un'università ubicata in un comune diverso. Le spese invece universitarie? Per le spese universitarie sono le tasse, quelle tasse universitarie sono completamente detraibili al 19% dell'intero importo, infatti. Tra l'altro, lo dico, siccome è molto chiara stamattina sulla guida del Sole 24 Ore a come compilare unico 2014, è molto chiara a pagina 6 la mappa delle detrazioni dai mutui e premi assicurativi, io sponsorizzo la guida del Sole questa mattina, se non altro per come schematicamente appunto è fatta molto bene. Allora, ritorniamo al bonus e andiamo a Gabriele da Palermo adesso. Gabriele, buongiorno. Anzi, anche Alfredo da Roma. Adesso ovviamente vi siete scatenati tutti su questo tema. Sì, buongiorno. Buongiorno Gabriele. Senta, io volevo sapere un'informazione. Un autotrasportatore che ha una busta paga di 2.300 euro, però ha lordi. Lordi, esattamente. Poi durante la settimana c'ha delle spese per mangiare e tutto di 200 euro, per cui alla fine saranno... un autotrasportatore porta a casa 1.400 euro. Ma lei è, Gabriele, è un lavoratore autonomo, è un dipendente di qualche azienda? Sono un dipendente di un'azienda, faccio l'autista. Certo. Però alla fine mi rimangono, porto a casa le 1.300. Lei deve guardare quello che ha sulla sua dichiarazione dei redditi. Complessivamente arriva a 26.000 euro l'anno? Diciamo lordi. Sì, ci arrivo perché la busta paga saranno 2002-2003, diciamo sempre mensile. Su 12 poi... mesi, e allora probabilmente Gabriele sta proprio lì a pelo, no? Luca De Stefani. No, supera i 26.000 euro, solamente moltiplicando per 12 mensilità, sarebbero probabilmente 14, sicuramente andiamo a Già. Superiore, all'importo superiore ai 26.000 euro. Quindi Quindi Gabriele, purtroppo non c'entra nulla il fatto di spendere settimanalmente per mangiare, per mantenersi naturalmente anche quando viaggia, perché tutti quanti i lavoratori spendono per mangiare, per comporre ovviamente alla tavola pranzo e cena, ma questo non conta nulla ai fini della, dell'erogazione del bonus, purtroppo. Deborah, c'era la domanda relativa all'incentivo. Bravo, all'esodo. Il povero ascoltatore Adamo da Pescara, che l'abbiamo lasciato là, l'abbiamo fatto aspettare mezz'ora e poi ancora neanche gli rispondiamo. Mi dica tutto, De Stefani. Sì. In pratica gli incentivi all'esodo sono tassati come il TFR, quindi viene fatta una prima trattenuta in busta paga, nella busta paga dell'anno scorso, e quindi il tutto viene indicato nel CUD, non deve fare nessuna dichiarazione di redditi quest'anno, però tra uno, due, tre anni l'Agenzia delle Entrate farà il calcolo della media IRPEF degli ultimi 5 anni e applicherà su questo incentivo all'esodo, come sul TFR che ha ricevuto, questa aliquota media degli ultimi 5 anni, che può essere maggiore o superiore rispetto a quella già trattenuta dal datore di lavoro. Quindi vi sarà una cartella esattoriale vera e propria, alle volte arrivano i clienti con... perché arriva la cartella esattoriale, non c'è un avviso bonario che arriva, sembra una multa, in realtà è un semplice ricalcolo di tasse, corretto e preciso da parte delle agenzie di entrate, dovuto. Guardi, che lei ci ha dato questa immagine della cartella esattoriale buona, De Stefani, io la ringrazio molto, però insomma abbiamo anche questa versione che pochi conoscono, ma cioè, insomma è un ricalcolo solo corretto delle tasse da pagare. Giovanni, volevi aggiungere qualcosa sul caso? No, perfettamente d'accordo, ragione Luca, è chiaro che stiamo ragionando in una situazione in cui non abbia spese da detrarre o da dedurre, in quel caso potrebbe, ma Luca mi corregga, potrebbe anche sfruttare la formula del 7,30, perché da quest'anno il 7,30 si applica. Si è ampliato ad una platea a chi non ha sostituito l'imposto, no? Vero. De Stefani, non mi dica che l'ha messa sotto scacco Giovanni Parente, no. Tutte le Diciamo che per il TFR e per l'incentivo all'esodo abbiamo come unica strada quella della tassazione separata, e quindi c'è una prima ritenuta da conto che viene applicata dal datore di lavoro e si chiude lì la questione e il contribuente non può fare nessun'altra operazione. Poi c'è l'Agenzia di Entrate che rifà i calcoli, calcola la media dell'aliquota IRPEF degli ultimi 5 anni, quindi dal 2013 indietro per 5 Benissimo. Anni e rifà i calcoli, e da quell'importo lì non posso detrarre nessun tipo quindi di... Quindi Adamo tra 5 anni circa deve attendersi questa bella cartella esattoriale che sarà di colore, questo conguaglio, chiamiamolo un po' così. Alfredo da Roma, bonus 80 euro anche per Alfredo, buongiorno. Perché siamo a 2 minuti dalla scadenza, così diamo spazio a molti. Senta, per un lavoratore precario che non ha partita IVA e fa più di alcune collaborazioni occasionali con vari datori di lavoro che cambia annualmente e che chiaramente nella somma di tutti le collaborazioni supera le 8.000, ha diritto a chi lo deve chiedere se ha diritto? Bravo Alfredo, allora tra l'altro perché noi abbiamo dato fino ad ora il limite massimo per avere diritto all'erogazione, quello minimo invece è quello di 8.000 euro. Alfredo li supera, per cui diciamo in termini reddituali ha diritto. Il tema è la confusione dei vari datori di lavoro. Luca De Stefani, quale gli conviene chiedere appunto la prestazione di sostituto d'imposta? L'importo che è di reddito più alto, sicuramente, quindi il datore di lavoro che gli eroga un reddito più elevato, e l'importo degli 8.000 euro è determinato perché sotto gli 8.000 euro non si paga nessun tipo di IRPEF e quindi via l'esenzione. Sì, si paga dell'IRPEF ma è già abbattuta con le detrazioni di lavoro di prima. Quindi deve scegliere il datore di lavoro che gli eroga il reddito più alto, quindi quello evidentemente con le quali ha i rapporti di collaborazione più frequenti. Giovanni, esattamente, questa è una regola di buon senso in questo caso. L'ultimo ascoltatore ce la facciamo a sentire Giuseppe da Bari. Giuseppe, ma veramente in 10 secondi, grazie. Ecco, ha anche chiuso, è in mobilità, nel CUD gli hanno messo l'importo di redditi che non ha percepito, la sua ex azienda è fallita. Ecco, perché qua ci sono anche tanti ascoltatori che magari ancora lavorano, Luca De Stefani, ma non percepiscono materialmente lo stipendio e si chiedono se almeno questo contributo possa arrivare, ma la vedo un po' difficile che l'azienda riesca ad erogare 80 euro se non eroga lo stipendio normale. No. Esatto, è impossibile, ma il nostro ascoltatore sicuramente si troverà nel dubbio se dichiarare questi redditi che vengono certificati nel CUS del datore di lavoro, ma non li prende, certo. Ecco, la risposta è negativa. Non devi dichiarare nulla, è tipico grazie. Caso di questo periodo che non va tassato. Grazie Luca De Stefani, siete in tanti, scriveteci a cuoredenari@radio24.it. Giro tutto a Luca De Stefani, grazie a Giovanni Parente, torniamo domani, buona giornata. Cuore e denari.